America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The 17-year political dominance of Silvio Berlusconi formally ended Wednesday as Italy's new premier was sworn in. Economist Mario Monti took the oath of office at the presidential palace. Si continua a parlare in America del governo Monti. Se ne parla naturalmente con una sensazione di speranza, la stessa sensazione che abbiamo noi qua in Italia, perché ci si aspetta che questo governo possa davvero cambiare le cose e fare delle cose importanti. Uno degli aspetti più interessanti di cui abbiamo parlato un po' la settimana scorsa, venerdì scorso, riguarda la composizione di questo governo, un governo fatto di tecnici. E quello che io dicevo è che mentre da noi così si mette molto l'accento sul governo dei tecnici, perché i politici fanno un passo indietro e quindi c'è questa grande descrizione del sacrificio da una parte dei politici che rinunciano a posizioni importanti a favore di nuovo dei tecnici, in realtà per un paese come l'America questa è una cosa piuttosto normale, perché molto spesso i ministri sono tra virgolette dei tecnici, soprattutto nel governo Obama, il responsabile dell'ambiente, addirittura un premio Nobel per l'ambiente, il responsabile del tesoro, Tim Geithner, è un uomo che ha fatto carriera sempre all'interno dell'amministrazione pubblica. Perché c'è questo in America? Beh, perché c'è la separazione dei poteri, il potere legislativo da una parte, il potere esecutivo dall'altra. E l'idea è che il potere esecutivo deve occuparsi delle cose concrete, deve farlo bene e non deve essere troppo inquinato da quelli che sono gli interessi di politici, i quali probabilmente pensano più a crearsi una base elettorale e a magari a fare dei favori di bilancio appunto ai loro elettori, che non a tutelare l'interesse della nazione. Ci sono due personaggi che abbiamo intervistato, che voi avete ascoltato qui nel mio programma, Corrado Passera e il nuovo ministro degli esteri Giulio Terzi, che con l'America hanno un rapporto di straordinaria consuetudine. Io vorrei parlarvene e vorrei farvi ascoltare che cosa mi hanno detto quando li ho intervistati non tanto troppo tempo fa. Cominciamo con Corrado Passera, un uomo che ha studiato in America, ha studiato alla Wharton Business School, ha continuato a venirci, conosce a fondo il modello americano, ha lavorato alla McKinsey, però è sempre stato in Italia, quindi è il nostro tipico uomo d'affari italiano che ha una visione internazionale. E siccome oggi il problema più importante che noi abbiamo è quello che riguarda la crescita, vorrei farvi ascoltare che cosa mi ha detto in un'intervista che feci con lui qualche tempo fa. Da troppi anni l'Italia non cresce abbastanza, l'Europa non cresce abbastanza, questo si porta con sé il problema numero uno, che è quello dell'occupazione. L'emergenza numero uno in Europa, ma sicuramente in Italia, è quella della creazione di nuovi posti di lavoro. Dobbiamo far crescere di più l'economia e la crescita di lungo termine viene dallo sforzo combinato di tutti, non soltanto né delle imprese, né delle banche, né della politica, né del mercato internazionale. Avete sentito Corrado Passera, vi ho fatto ascoltare questo passaggio della chiacchierata perché è un passaggio chiave. Il problema è la crescita. Gli Stati Uniti hanno attaccato l'Europa perché si è preoccupata di tagliare, si è preoccupata di fare solo piani di austerità senza accompagnarli però questi piani di austerità dei programmi anche espansivi. Siccome senza crescita non si rimettono a posto le cose, è chiaro che la crescita deve diventare una priorità. Io sono molto rassicurato dal fatto che Corrado Passera sia diventato il ministro per lo sviluppo economico, di fatto forse il secondo personaggio più importante di questo governo dopo Monti, proprio perché la sua sfida è una sfida che riguarda la crescita, visto che poi Monti è l'interim del Ministero del Tesoro, e dunque c'è da augurarsi che segua coi fatti quello che ci ha detto qui ad America 24 qualche tempo fa. Vi ripropongo invece una chiacchierata con Giulio Terzi, uomo straordinario, carriera diplomatica a tutto tondo, ha lavorato alle Nazioni Unite, ha lavorato in Italia alla direzione degli uffici politici e poi è stato ambasciatore alle Nazioni Unite e adesso era ambasciatore a Washington. E in questa chiacchierata emerge non soltanto la conoscenza di Terzi del territorio americano e dei problemi internazionali, ma l'aspetto umano, il rapporto che noi dobbiamo avere, per esempio, con gli italoamericani. È una comunità grande, vincente, fortemente, sempre più fortemente legata al nostro paese, che trova proprio nell'identità italiana uno dei suoi straordinari elementi di successo. e le faccio semplicemente l'esempio di una sensazione che ho tratto pochissime sere fa, quando ho invitato in residenza la Italian American Congressional Delegation per una riflessione sui rapporti fra Italia e Stati Uniti e il contributo e il ruolo che può avere anche il Parlamento americano per rafforzare questi legami. E mi ha veramente colpito in modo molto positivo l'interesse, l'attenzione, ma direi anche la passione con la quale questi parlamentari, di origine italiana nella maggior parte dei casi, si sono mostrati consapevoli che la carta del rapporto fra Italia e Stati Uniti è una carta estremamente importante sotto tutti i profili, la cultura, l'economia, la politica e le relazioni umane. E poi gli ho chiesto del rapporto con gli italoamericani. Noi abbiamo ancora degli stereotipi nei confronti degli italoamericani, cosa che secondo me è sbagliatissima perché sono i nostri interlocutori privilegiati in America. Sentite cosa mi ha detto. Da un lato ci dovrebbe essere l'impegno alla lotta contro gli stereotipi, dall'altro la constatazione che va bene continuare così, cioè noi ci stiamo già evolvendo come scelte imprenditoriali in America nella direzione che lei ha dato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Sul suo blog Adele si è rivolta ai fan per ringraziarli ovviamente dell'appoggio, del supporto e per rassicurarli sul fatto che sta benissimo. Cos'è successo? Beh, è successo che Adele aveva avuto un intervento alla gola che ha rischiato di minacciare la sua carriera. L'intervento ha avuto successo, speriamo, e comunque dedichiamo la canzone ad Adele, Rolling in the Deep. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.